ad alta voce. Patrizia Zappamulas legge Artemisia di Anna Banti. 19ª puntata. La regina non ritorna, non ritorna il re. Orazio si è richiuso nel suo vecchio costume burbero. Memore delle ultime esperienze, di quei lampi felici in cui si era ricordata di sapere di poter dipingere per sé sola, Artemisia si chiude in camera, riapre le sue scatole, ordina, spolvera, prepara il lavoro, come faceva da ragazza, e, come allora, mastica nervosamente un seccherello di pane, avanzo della colazione. Cominciò in quei giorni una figura senza modello, di memoria, ma di quale memoria? Se lo domandava, mentre le sbocciavano sotto mano una guancia di caldo pallore, capelli neri raccolti in un nodo negligente e sfatti sul collo e sull'orecchio, di memoria, non di maniera. La ciocca che dalla tempia si sfioccava giù per la gota e velava l'orecchio, la assegnò e stemperò con una maestria di cui s'accorse e si compiacque in un attimo di gioia pura. Ormai la testina era del tutto configurata, come se il modello fosse presente, in una naturalezza che pungeva e scommetteva una somiglianza. Non è Porziella, non è la figlia di Tuzia Romana, l'antica familiare modella, è una a cui Artemisia ha voluto bene senza saperlo, che ha molto e intensamente guardato senza vedersene. Fu per quell'inclinarsi scontroso sulla spalla sinistra che il riconoscimento si avverò e il nome soccorse: Annella De Rosa. Ecco il suo labbro imbronciato, l'occhio fosco sotto la palpebra grassa, ed ecco perché il viso non apparisce che per due terzi, quasi dispettosamente sottratto all'indagine. Incontrarla così è sbarrarle il passo. Inchiodata alla verità di una spalla, di un braccio, di una mano col pollice infilato nella tavolozza, Annella non potrà sfuggire. Questo pollice aveva l'unghia corta e quadrata da uomo. «Buongiorno, Anna», diceva Artemisia, entrata come a caso, ma caso non era, e avanzando verso la giovane trasandata, quasi discinta nella foga del dipingere. Trepido e vigilante accorreva dal fondo della bottega Massimo Stanzione, le braccia levate, gli occhi supplici. Non si disturbi l'allieva miracolosa, il prodigio carissimo. Ristretta l'ospite Artemisia in un cantuccio, il maestro spiegava a bassa voce: così sensitiva e bizzarra, bisogna averle riguardo, un talento da sbalordire, lumi da Caravaggio, invenzioni da Annibale. Ma per un nulla getta i pennelli, guasta i colori, sporca la tela, colpa del marito, quel forsennato. Impassibile, Annella seguita a lavorare e Artemisia brucia di indignazione, si picca, vuol vedere questo angelo sbattimentato, vuole approvare, ammirare, che una donna si faccia onore, è il suo onore, nessuno la privi di mostrarsi generosa e giusta in un cimento, voi sapete come la stimo e la tratto, ma è troppo sdegnosa. Volse le spalle Artemisia, partì, giurando che l'avrebbe d'ora in poi ignorata. Pure, quando Massimo gliela portò per sottrarla alle furie del marito, come folgorarono di riconoscenza e di intesa quelle giovani pupille nere e la bocca, ancor tenera, un po' violetta nel rosa, bisbigliò convulsa le parole non dimenticate: pittori ce n'è a dozzine, ma c'è una pittrice sola, maestra mia. Ora ecco Annella risorta per caso, Annella che avrebbe 30 anni appena se il pugnale di un uomo non l'avesse stesa a terra e lasciata esangue, livida, come una Lucrezia, una Cleopatra. Volge le spalle alla luce di Londra, questa luce è tesa, estremata, al punto che nello sforzo di resisterle gli occhi di Artemisia credono di veder la ciocca nera lievitare dolcemente sulla tela. Reggia par sospesa, come di rado accade, in una pausa di quiete assoluta. E ricordandosi di come a Napoli, la sera dell'Accademia Solenne, prese per mano la bella De Rosa, la Gentileschi si sente forzata a carezzare col pennello un po' più del necessario quella mano dipinta. Dalla finestra aperta, la dura pioggia estiva comincia a battere a stravento, ma lei non può muoversi per chiuderla. Alla radice i suoi capelli si irrigidiscono, sebbene sia tanto tranquilla, tanto contenta del suo lavoro. E il primo moto che la svincolò dall'incantesimo fu il gesto di una popolana superstiziosa. Si segnò. ma l'Ave Maria che le venne alla bocca non fu per il riposo di una morta, sì per l'immagine eterna di una carità appassionata, per il successo di un'arcana, disinteressata speranza. E tutta la notte la tela rimase scoperta sul cavalletto. Esiste ancora? Non è l'incorruttibile strumento, la voce ghiaccia d'impervia immortalità che distintamente scandì non piangere. Più che voce, è interiore moto di pietà storica, senza allarme, né illusione, né accoramento. Confitta nello spazio e nel tempo come un seme infruttuoso, ascolto un fruscio senza frescura, il respiro polveroso dei secoli, il nostro e quello di Artemisia, congiunti. Respiro di dormenti che sognano e le immagini non li lasciano in pace. 1939, un castello reale inglese, squallido e sordo, salvo la domenica, quando a siepi, a grappoli di quasi vegetale continuità, la folla lo imbottisce, obbedendo a un brusio di appelli che hanno nome cultura, curiosità e che l'aria esteriore disperde. Già sistemati nel ricordo, oggi sono fantasmi comandati che consumano scarpe e pavimenti, si specchiano nei vetri delle finestre e poi nelle tele, sulle pareti, vespe di regine Elisabetta in pompa, scorpioni di cavalieri speronati, qualche dea, qualche inutile santo incrostato da secoli e ispide montagne e galeoni crudeli e gloriosi, i domenicali occhi si invetrano e la passeggiata riprende. Non si sono riconosciuti. La storia è morta. Ma lassù, appesa più in alto delle regine e dei guerrieri, una giovinetta imbronciata seguitava a dipingere come fosse viva. E sotto, in caratteri amministrativi, un nome era scritto e leggibile: Artemisia Gentileschi. Questo posso assicurare e documentare in fede su questo foglio, al lume di una candela di guerra, e l'aria dietro la mia spalla, l'aria dell'inverno 1945, non ha un fremito di consenso, né occorre giurarlo a caratteri di sangue. Artemisia. A norma di universo, le grandi stragi non sono neppure un brivido, sebbene l'universo dell'umana memoria protesti. E se erano affidati alla carta, al legno, alle pietre, queste materie più salde di un corpo umano, perché l'umanità civile continuasse. Ma ecco, scritture, intagli, colori, violentemente sbaragliati e inceneriti, mentre l'ingegnoso che li concepì è ridotto un meschino senza volto, scacciato dal sasso dove univa i piedi tremando all'orlo di una voragine. Per poco viva, io non posso dire dove sia, a quest'ora, il ritratto di giovinetta e quella scritta Artemisia Gentileschi. Con che fatica la compitavano gli inglesi in visita domenicale e altrettanto fecero e facevano, in diverse occasioni, quelli del 1640, 41 e su, ripetendo, rileggendo quel nome straniero, tutte le volte che la tela fu raccolta, riposta, esposta, disprezzata, lodata, ritrovata. In verità, il soggetto piaceva. Una giovane che dipinge, una donna del mezzogiorno e con quei capelli neri sfatti da avvicinarla senza complimenti. La pittura, dissero un certo giorno i custodi dei palazzi reali. Autoritratto di Artemisia Gentileschi, dichiarò il solito discendente di Lady Arabella, appassionato di archivi. Lo ispirò forse la vendetta di Annella, Annella imbronciata che non ha avuto tempo di viaggiare, ma solo di morire in fretta, e si svincola ancora una volta dalla mano di maestra Artemisia, la quale, con questo viso di bruna torrida, affonda nella leggenda meridionale e passionale della sua giovinezza scandalosa. Fu violata da Agostino Tassi e amata da molti. Così è ripetuto a stampa, anche in inglese. Ma la mano di Artemisia è forte e Annella non se ne libera. Ritratto o no, una donna che dipinge nel 1640 è un atto di coraggio. Vale per Annella e per le altre 100 almeno, fino ad oggi. Vale anche per te, conclude al lume di candela, nella stanza che la guerra ha reso fosca, un suono brusco e secco. Un libro si è chiuso di scatto. Dunque, Dunque la regina non torna. La regina è partita per l'Olanda. Del ritratto che inaridisce nel padiglione francese nessuno più parla, come del resto della pittrice. Data l'ultima velatura alla tela su cui annella o la pittura s'affaccia, Artemisia pone sul cavalletto una santa Barbara portata incompiuta da Napoli, ma non le riesce di metterci mano. Non ha più voglia di dipingere. La luce dell'estate inglese le ritorna nemica e di nuovo la sbigottisce come uno spettro che non è possibile affrontare sola dalla finestra troppo alta del suo soffittone. Giù, in basso, nella stanza di Orazio, il riflesso dei giardini è più terrestre, meno desolato. Artemisia ridiscende dal padre, senza portargli la sua ultima fatica, un segreto, le pare, da conservarsi per più tardi. Eccola di nuovo a dividere il tempo in faccende sommesse, in lavori non necessari, e a coltivare lo stupore mai spento di trovarsi in questa terra. Esilio, rimpatrio. Sulla sua testa china le immagini antiche. Roma, Napoli, gli amici oscillano come foglie secche prossime a staccarsi dal ramo. Forse qui essa è nata e non se lo ricorda. Qui ha vissuto come vive, vuota di amore e di dolore, silenziosa accanto a un padre che non parla. I nomi che la memoria conserva sono anche loro penduli, disanimati, quasi incapaci di farla soffrire, e occorre talvolta la materialità di un gesto, alzare il capo, fissare gli occhi nel vuoto per riafferrare un lembo di quella sofferenza che era pur vita. Ma anche amare il dolore è difficile. La notte che finalmente cade sembra assolverla da questo impegno. Una certezza basta a sostenerla. C'è il babbo accanto a lei, il babbo che respira, lavora, non può morire. Non può morire un uomo che dalla vita estrae soltanto suggerimenti astratti di luce, di colore, di forme. Un uomo che non sbaglia mai. Finché questi esisteranno, lui esisterà. Orazio da lungo tempo non consuma la vita. La vita non lo consuma. Dormicchia, è vero, da vecchio che è, dopo la cena che appena tocca, ma è per cancellare, sciogliere le ore che non gli consentono di operare. All'alba è in piedi, fra vasetti, scodelline, pennelli, essenze che prepara lui stesso. Non vuole più garzoni, né si arrabbia più. I suoi contatti col mondo sono effimeri. Il suo bicchiere è sempre vuotato a metà, il cibo appena assaggiato. Egli li allontana con un gesto secco quando la figlia glieli presenta sul lavoro verso mezzogiorno. Mirabile che, tanto abbandonato nel dipingere, ora a quelle sue mani color cenere appena un po' venose nessun colore si attacchi, sicché par di vederlo difeso da un vetro. Le sue azioni sono così salde, così assicurate da un'esperienza infallibile, che una miracolosa incolumità da ogni pericolo d'errore ne scaturisce e si diffonde intorno. L'avvertono anche i pochi artisti che continuano a visitarlo, sebbene egli abbia smesso di parlare dell'arte e quasi d'ogni altro argomento. Ad Artemisia, rientrata nelle sue mansioni di figlia, si inchinano appena, come quando arrivò, ma adesso lei non si allontana, non sfugge più. Fidando nel padre, si appoggia interamente a quel motivo che è un'innocente astuzia di assisterlo, mentre sa di essere da lui assistita. Ma una sera d'agosto, mentre s'avvia in punta di piedi per salire alla sua soffitta, Orazio si sveglia. Usava addormentarsi su un seggiolone rigido, la schiena appena sostenuta, il capo libero ed eretto, né la figlia era sicura che più tardi si spogliasse e si stendesse. Nel momento che avanza la mano alla maniglia, tenendo ferma nella sinistra la lucerna, i suoi occhi incontrano quelli del padre, aperti e come fissi in un pensiero. Hanno, pur nella penombra, una chiarezza di smalto. Ogni pimento dell'iride grigia vi concorre, mentre la bocca ha perduta la sua solita durezza arcigna e s'ammorbidisce, quasi si gonfia in una nuova titubanza. Sotto questo sguardo così fermo, si ferma la donna e sente che deve parlare. Babbo! E la campana della torre par che voglia proprio in questo punto soverchiarla. Babbo! Il suo piede è ancora sospeso, che già la risposta viene, non in forma di suono, ma per un battito della palpebra che assente. Sì, dice Orazio con quel segno, e forse non voleva. Somiglia a un grande uccello scarno e malato che veli a se stesso col panno dell'occhio la propria sofferenza. La palpebra si rialza, l'iride appare ancor più scolorita, allargata, e guida Artemisia meglio della lucerna mentre si avvicina, sempre in punta di piedi, quasi per sottrarsi all'indagine del vecchio viso su cui un timore pudibondo si definisce e un allarmato ascoltarsi. E come la figlia gli accanto, ma non si è ancora piegata su di lui, agli insoliti sensi che hanno invaso la faccia del pittore, un altro se ne aggiunge non meno insolito, che è, non c'è dubbio, di soddisfazione, di contentezza, e si sparge per le rughe e ne lievita e alleggerisce la profondità sino all'angolo dell'occhio, che pure non sorride. «Vi sente qualcosa, babbo?» E ancora una volta la voce astratta della gran torre sopravviene a tagliare e confondere il patetico accento di una Pisa dorata, irraggiungibile, a cui la donna si lega senza averla mai vista per via di sangue. Le palpebre del vecchio sembrano ora assottigliate, fragilissime e precarie contro lo sguardo che schiacciano. La gola palpita e inghiotte, mentre la mano di cenere fruga le pieghe del collare, scioglie con uno strappo un legaccio troppo stretto. Così Porziella sciolse i nastri della sua cuffia la prima notte che fu viva, ma avanti di scivolare e abbandonarsi, la mano di Orazio cerca e stringe al polso quella di Artemisia, ed è una stretta di ossa convulse e brucia da farle rammentare la corda dei sibili quando ebbe la tortura a Corte Savella. Piange la figlia e non sa se per tenerezza o per sgomento. Di nuovo gli occhi del pittore si aprono e vi si legge per la prima volta quell'ansia smarrita di partecipare un dolor troppo forte, un messaggio che è quasi un rancore verso i sani. E il vecchio, dopo decenni di esilio, ventenni di vita virile e solitaria, ritorna a un gemito non strano, dialettale, ahimè, raccolto in età tenera sulle rive dell'Arno. Una mamma toscana, un bambino toscano infermo, sono adesso questa donna e questo vecchio. Così Orazio si lagnava da piccolo, così sua madre avrebbe potuto assisterlo, spaurita, se si fosse trovata sola fra le deserte pinete pisane, accanto al mare, col nato in grembo. Come avrebbe fatto lei, Artemisia gira lo sguardo intorno a sé e cerca, fra oggetti inutili ed estranei, un soccorso. Giù, nelle sconosciute cucine della reggia, su, nelle anticamere buie, sguatteri, staffieri, armigeri, non esistono per i due italiani, né esistono gli empirici, i medici di Enrichetta, né gli amici pittori, e non esiste lo sguardo, la mano, il consiglio di almeno una serva fedele. Ci vorrebbero un focolare conosciuto e benevolo, un pentolino, le erbe raccolte nel prato, tutte cose lontanissime, cose semplici, da fidarsene e ricorrerci quando si sta male e attingerne l'augurio che non è nulla e un po' di decotto basterà. Il braccio, si lagna ora distintamente il malato, e la mano sciolta prova a sollevarsi per indicare e scongiurare sul gomito sinistro l'origine del male. Con difficoltà e raccapriccio di dormente, Artemisia gli si agita intorno, non osando né toccarlo né lasciarlo, e ritrovando certi gesti di bambina alle prime faccende per improvvisare un rimedio. Sul pietrone dell'immenso camino riunisce un combustibile di fortuna, spezza sul ginocchio un vecchio telaio, trova e accende l'esca. Ora, dice, ora faccio fuoco, ora vi passa. Quando finalmente arsiccio e ostile il legno comincia a crepitare da quel mucchietto sperduto nel grande antro, par che la vista delle fiamme le ispiri un nuovo terrore, lo sbigottimento per una realtà di sciagura che va in fretta, prevale sull'annuncio e ancora non le si crede. Le più assurde scommesse nascono come funghi malvagi. Se quel tizio prende, se quella lingua azzurra non scompare, La persona china è terribilmente attenta, come insensibile e tutta dedita a una cura materiale. E così Massaia, bambina, accudiva alla minestra del padre e dei fratelli, e la notte veniva prima che babbo tornasse. Ma c'erano i grilli fuori della porta, nel sereno delle vigne, e le campane dei frati. Una comare finiva sempre per affacciarsi e aiutarla a sganciare il paiolo. È povero questo fuoco, è maligno, sempre sul punto di smorire, e l'acqua, messa a scaldare in un vecchio coccio, geme e frigge stillando da una crepa. Le riuscì alla fine di improvvisare il rimedio delle femminette, un rozzo mattone arroventato. Mentre lo fasciava di lane e ne evaporava un odore di bruciaticcio nauseabondo, l'odore degli inverni romani e delle sue tosse infantili, vide che l'occhio dilatato di Orazio s'era ristretto, e quella gonfiezza dei tratti, insieme rasciugata e assottigliata, quell'occhio covava i suoi gesti ma senza impazienza, chiedeva piuttosto qualcosa di più difficile, una confidenza, un'intimità disperata. E come sul braccio fu posto il mattone bollente, le palpebre si richiusero con un senso di rinuncia così definitiva e così austera che Artemisia gridò. Subito riapparvero le iride chiare e tendevano ora più al celeste che al grigio, colore e moti oscillando in uno sforzo di rassicurare, consapevole, meditato. «Sto meglio», articolò il vecchio con una lentezza assorta e richiuse gli occhi. Ma la destra si mosse e di nuovo cercò quella della figlia. Tremava un poco e parvero mostruosamente gonfie e azzurre le vene fra le nocche. Ricevendola nella sua, Artemisia si stupì di come era minuta e consunta, ossa fragili e secca pelle, una mano che aveva tanto operato, comandato, disposto, quasi non agì l'affetto ma l'indicibile devozione di scolara, e si chinò a baciarla. Non era successo 10 volte in tutta la loro vita, mai tuttavia con questa meditata effusione. «Oh, babbo, babbo!» pensò e non disse Artemisia, e sollevò il viso perché le lacrime non bagnassero quella mano. Pallidissimo e ineffabilmente quieto nel volto, Orazio era caduto nel sonno. Ancor dritta la persona, respirava lentissimamente ma senza sforzo. La destra, ricondotta sulle ginocchia, era rimasta aperta, il palmo all'insù, col pollice e l'indice come fermati e accennanti a un esercizio delicato, vittorioso dello stesso abbandono. Sul polpastrello del dito grosso, la pelle ispessita recava un affossamento lividetto. C'era in un angolo della sala, accanto ai telai e ai barattoli vuoti, un bel tappeto d'oriente arrotolato, servito ultimamente di sfondo al modello. Artemisia lo spinse, lo tirò, lo spiegò, lo distese. Misurava quanto il suo corpo allungato. Sopra quello si adagiò, inesprimibilmente soddisfatta, vuotata d'inquietudine. Sul suo viso, che la lana ruvida graffiava, cadevano le pieghe del giubbone del padre, solide, vicinissime, come accidenti di un paesaggio familiare. E presto il tappeto fu muschio silvestre, le pieghe rocce e una grotta protetta quel duro giacere. S'accorse che il sonno veniva, le parve buon segno, e nel rigirarsi per soffiare la lampada posata a terra accanto a sé, batté la tempia contro la zampa del seggiolone e quasi ne rise, come una bambina in avventura straordinaria. Al buio il sonno si allontanò e lungamente essa rimase sveglia, le narici vellicate da pizzichii, da vago sentor di droghe e di polvere. Per la vasta impannata senza imposte un chiarore corposo e come sporco si faceva poco a poco riconoscere per riflesso di luna, di cielo stellato, di lucerna. Qualche tonfo sordo e reiterato veniva dalle scuderie e richiamava i cavalli dalla lunga coda, scalpitanti nel sonno e nel sogno, dietro le spesse frange degli occhi feroci. Una finestra fu ribattuta, un bambino pianse. Chiarissima, una voce vicina concluse un ragionamento e si stemperò in una risata che un'improvvisa onda di vento respinse e dissolse. Qualcosa Si staccò da un davanzale e andò in frantumi di coccio sulle pietre del cortile. Il silenzio dei luoghi troppo abitati, casuale e fragile, oscillava come un velo sui dormienti, e ora lo bucava un grido fioco e lontano, ora un trasalire indistinto, moto quasi di chi nel sonno avesse mutato fianco e sospirato. Ma non sospirava. Orazio Gentileschi, il suo lieve respiro, l'orecchio della figlia se lo conquistava con fatica, contendendolo agli altri sensi vigili, alle tenebre, finché le parve di averlo imprigionato in una cadenza da durare eterna. Allora Artemisia si addormentò. Dormì fino all'alba, ma non fu il tappeto ruvido o la durezza del giaciglio, né furono i rumori del nuovo giorno a destarla, anzi a scuoterla. Una immobilità d'interno remoto, di animo sospettoso, la coscienza di non abbandonarsi, liberarsi nel tempo senza misura, la trafissero con un gelo improvviso e si ritrovò supina, a occhi e orecchi spalancati, come non avesse mai preso sonno. I suoni esterni erano rilanciati elasticamente dalla forza di una tremenda attenzione che già vibrava, già palpitava. Nella stanza, che l'aria ferma convertiva in un mondo sospeso e isolato, pareva che un farfallone notturno fosse sul punto di battere le ali. D'un tratto si rammentò, fu in piedi. Il respiro di Orazio Gentileschi non aveva più alito né cadenza. La sua bocca, leggermente aperta e molle, pareva averli ingoiati e rammaricarsene. Su quella bocca si chinò la spaurita, ed era tanta l'ansia di strapparle una speranza che la sua fronte la toccò, toccò i denti scoperti. Le labbra erano fredde. Grida, singhiozzi, soccorsi vani, compianto, sino alle immagini estreme del lutto e degli onori funebri balzarono in una stanza muta e divorante, là dove nessuno aveva ancor detto che ci fosse un morto. Il corpo di Orazio, seduto, era ancora soltanto di sua figlia. Essa poteva contraddirne la fine piuttosto che piangerla. Tutte le forme della ribellione estrema a un fatto di natura parevano più praticabili che un dolore non ancora configurato nelle parole altrui, così semplici e quotidiane, orrendamente nuove e inaccettabili. Così fece la prima famiglia dinanzi alla mistificazione della morte. Così, per qualche istante, Artemisia si propone le macabre astuzie dei non rassegnati. Non è morto, non può essere morto. Questa parola non è cosa per lui. Forse scrollò il padre, o lo carezzò, o lo strinse per farlo ravvedere da questa debolezza indegna. Orazio non protestò, non si pentì. Venne il momento di aprire la porta. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.